Capitolo 8. Dal nostro inviato speciale all'estero. Londra. Carissime, vi scrivo proprio davanti a una finestra di facciata dell'albergo Bath in Piccadilly. Non è molto alla moda, ma lo zio ci discendeva tanti anni fa e non vuole andare altrove. Ma non importa, perché la nostra permanenza non durerà a lungo. E ora vorrei dirvi quanto me la godo, ma non so da che parte cominciare, perciò vi trascrivo qualche nota del mio taccuino. Da quando sono partita non ho fatto che scribacchiare note o fare schizzi. Da Halifax non vi ho scritto che una riga in fretta. Ancora stavo male, ma dopo sono stata benissimo e raramente ho sofferto il mare. In coperta tutto il giorno, con tante persone divertenti per aiutarmi a passare il tempo. Tutti molto gentili con me, specie gli ufficiali di bordo. Non ridere, Joe. A bordo i signori uomini sono necessarissimi per far la corte alle signore e assisterle un po'. E siccome altrimenti non avrebbero nulla da fare, è una fortuna per loro essere utilizzati a questo modo. Io temo, se no, che morirebbero di noia in una nebbia di tabacco. La zia e Flo hanno sofferto per tutta la traversata, perciò preferivano essere lasciate sole, sicché io, una volta fatto per loro ciò che potevo, me ne andavo a divertirmi. Che passeggiate in coperta, che tramonti e che cieli e che mare! Era bello come montare un cavallo di sangue. Il vapore avanzava glorioso e trionfante. Avrei voluto che ci fosse Beth, quanto bene le avrebbe fatto. Quanto a Joe, poi me l'immagino arrampicata su fino al fiocco di parrocchetto, o come diamine si chiama, a fare amicizia coi macchinisti e a strombettare nel megafono del comandante, insomma a sfogare nei modi più svariati la sua vitalità e il suo entusiasmo. Traversata divina, sì. Ma confesso che fui ben contenta quando si avvistò la costa irlandese. Deliziosa anch'essa col suo verde nella gloria del sole, con le casette grigie sparse qua e là. E poi le rovine pittoresche sulle alture e le ville signorili nelle valli e i parchi dove pascolano i cervi. Era appena giorno, ma io non mi pentivo di essere scesa dalla cuccetta per vedere lo spettacolo. La baia formicolava di battelluzzi e a terra la veduta era pittoresca sotto un cielo color rosa, una vista indimenticabile. A Queenstown una delle mie conoscenze di bordo sbarcava, il signor Lennox. Nel salutarci, io nominai non so come i laghi di Killarney e lui si mise a cantare la canzone di Kate Kearney, la fanciulla dallo sguardo fatale che vive su quelle rive, e mi fissava e sospirava. Sciocchezze, insomma. A Liverpool non ci fermammo che poche ore. Liverpool è sudicia e rumorosa. Fui ben contenta quando si ripartì. Lo zio fece un salto a terra e si comperò un paio di guanti di cane, due brutti scarponi e un ombrello. Si fece radere con le basette a costoletta, questo per prima cosa, anzi. Dopodiché si illuse di essere un autentico britanno. Ma appena andò a farsi pulire gli scarponi infangati, il lustrino indovinò subito che dentro c'erano due piedi Yankee e con un sorriso gli disse: «Ecco, signore, gli ho dato l'ultimo lustro all'americana». E lo zio gongolava. «Ah! Mi scordavo di dirvi cosa ha fatto quell'assurdo Lennox. Ha incaricato il suo amico Ward, che proseguiva il viaggio con noi, di ordinare un mazzo di fiori per me. E la prima cosa che trovai, entrando in questa camera, fu il mazzo, molto bello, con la carta da visita e i complimenti di Mr. Lennox. Divertente, eh? Che bella cosa viaggiare. Ma se non mi sbrigo, non faccio in tempo a parlarvi di Londra. Il viaggio per Londra fu come percorrere una lunga galleria di quadri, anzi di paesaggi pittoreschi. Deliziose le case rustiche coi tetti di paglia e l'edera arrampicata fin sotto le grondaie e alle finestre a graticci. Sulle porte donne fiorenti e bimbi rosei. Perfino il bestiame pare più tranquillo che da noi, in mezzo all'erba da foraggio alta fino al ginocchio. Anche le galline chioccolavano con un'aria soddisfatta. Galline che non debbono essere nervose come le nostre. In nessun luogo avevo mai visto tanta vivacità nel verde dell'erba, nell'azzurro del cielo, nel giallo d'oro delle messi, nella tinta cupa dei boschi. Per tutto il viaggio fu un'estasi continua. Anche Flo era entusiasta. Non facevamo che saltare da un finestrino a quello opposto. Volevamo vedere ogni cosa col treno che correva a 60 miglia all'ora. La zia era stanca e si addormentò, ma lo zio, con la guida in mano, gettava la doccia fredda sui nostri entusiasmi. Saltava in piedi Amy esclamando: «Quello là, grigio, fra gli alberi, deve essere il castello di Kenilworth!» Accorreva Flo: Bello, bisognerà andarci, vero papà? E lo zio, con tutta la sua calma, ammirandosi le punte lucide degli stivali, no, cara, non ci andremo a meno che tu non abbia da acquistare birra, perché quella è una fabbrica di birra. Una pausa. E poi eccoti Flo che scopre due montanti con un architrave ed esclama spalancando gli occhi: Oh signore, guarda, una forca! C'è un uomo che monta su e la catena penzoloni! E lo zio, ammiccando: Quella è una miniera di carbone. Amy osserva intanto: Guarda tutti quegli agnellini a giacere sul prato! E Flo, tutta sentimentale: Carini, è vero papà? E lo zio: Quelle sono oche, signorine. Le due viaggiatrici alfine si calmano e Flo si mette a leggere i flirt del capitano Cavendish. E così il paesaggio rimane tutto per me, per ammirarmelo da sola. A Londra trovammo la pioggia, naturalmente, nebbia e ombrelli. Riposatici un po' e aperte le valigie, andammo a far spese nelle brevi schiarite, ma la zia Maria mi comperò qualche cosetta nuova. Ero partita così in fretta che ero ben lungi dall'essere fornita di tutto. Un grazioso cappello bianco con piuma azzurra, una camicetta deliziosa per accompagnarlo e un magnifico mantello. Che bellezza, poter fare le spese in Regent Street. Ogni cosa pare così a buon mercato. Figuratevi, i nastri, bellissimi, costano appena 12 soldi il braccio. Me ne son fatta una piccola provvista, ma per i guanti aspetto Parigi. Parigi. Il solo nome dà un'idea di lusso e di eleganza. Per divertimento, Flo ed io abbiamo fatto chiamare un hansom cab. Gli zii erano usciti e siamo andate a fare una trottata. Dopo ci hanno detto che alle signorine non sta bene. Ma com'era buffo! Una volta chiuso il grembiale di legno davanti, l'uomo guidava così veloce che Flo ebbe paura e mi disse di fermarlo. Ma quello era invisibile, di dietro, chissà da dove. Come fare ad avvertirlo? Io dagli a gridare, ma non mi sentiva. Dagli a battere col parasole, tempo perso. La carrozza correva all'impazzata, prendeva le voltate a rotta di collo e noi dentro non si poteva fare nulla. Alfine, disperata, volsi gli occhi al soffitto e vidi un finestrino, lo spinsi col parasole e si aperse. Un occhio arrossato apparve nell'apertura e una voce che sapeva di birra domandò: Vuole? Con tutta la calma possibile espressi il mio desiderio. Va bene, disse l'uomo richiudendo il finestrino e mise il vecchio cavallo al passo. Adesso pareva un funerale. Apro di nuovo, un pochino più svelto, e lui mi riparte a rotta di collo come prima. Bisogna rassegnarci al fatto. Oggi faceva bello e siamo andate a Hyde Park, che è vicino all'albergo. Il nostro quartiere è più elegante di quanto credevo. Poco lontano abita il duca di Devonshire. Qualche volta si vede la sua servitù oziare. Anche il duca di Wellington abita non troppo lontano. Ah, che spettacoli! È più bello che i burattini di Punch. Vecchie signore grasse nei loro cocchi rossi e gialli, coi lacchè magnifici in calze di seta e livrea di velluto, su nel predellino posteriore e a cassetta i cocchieri in parrucca bianca. E vispe bambinaie con bimbi rosei e belle ragazze dall'aria un po' addormentata. E i dandy con certi strani cappelli e i guanti di capretto lavanda che vanno oziando pei viali e bei soldatoni alti in abito rosso senza code e berrettino tondo sulle 23, così buffi che avrei voluto farne qualche schizzo nell'album. Rotten Row significa Route du Roi, la strada del re, ma più che altro adesso è una scuola di equitazione. Cavalli magnifici, gli uomini montano bene, specie i mozzi. Ma le donne stanno in sella dure e sobbalzano, che da noi non è bello. Mi veniva una gran voglia di far vedere un po' come si galoppano in America. Loro non facevano che trottare su e giù, solenni e attillate, sotto un cappello monumentale. Parevano tanti pupazzi del presepio. Tutti vanno a cavallo qui: signori vecchi, signore giunoniche, ragazzi. Gran flirtare fra i giovani. Ne vidi due che si scambiavano boccioli di rosa. È molto elegante portarli all'occhiello. Un'idea che mi pare abbastanza carina. Nel pomeriggio, abbazia di Westminster. Ma non me ne domandate la descrizione, non la saprei fare. Una parola sola vi dirò: è sublime. Questa sera si va a vedere Fletcher. degno coronamento alla giornata più bella della mia vita. Mezzanotte. È molto tardi, ma non posso lasciar partire la lettera senza dirvi cos'è accaduto ieri sera. Stavamo prendendo il tè quando ecco arrivare, indovinate un po' chi? Gli amici inglesi di Lori. Yvonne, Fred e Frank, che sorpresa! Se non avessi letto i nomi nelle carte da visita non li avrei mica riconosciuti. Si sono fatti alti tutti e due e portano le basette. Fred è bello nel suo tipo inglese. Frank è molto più bello di prima, perché zoppica appena e non ha bisogno di grucce. Lori li aveva informati del nostro prossimo arrivo e venivano a offrirci ospitalità in casa loro, ma lo zio non ha accettato. Ci limiteremo a restituire la visita e cercheremo di vederli di frequente. Ci hanno accompagnate al teatro, ci siamo divertite molto. Frank si dedicava a Flo e io con Fred ho parlato del passato, del presente e del futuro, come se avessimo vissuto sempre insieme. Dite a Beth che Frank ha domandato di lei e gli è dispiaciuto molto sapere che non sta bene. Ha riso quando gli ho parlato di Joe e manda i suoi ossequi più devoti al famoso cappellone. Non l'hanno dimenticato. L'accampamento Lawrence e la bella giornata che vi abbiamo passato, come sembra lontana, eh? La zia mi bussa nel muro per la terza volta, bisogna che posi la penna. Mi pare proprio di essere una gran dama di Londra che fa la gran vita e scrivere le sue lettere alle ore piccine con la camera piena di cose graziose e nella testa un tumulto di parchi, di teatri, di vestiti nuovi, di brillanti giovanotti che dicono «Ah!» e si arricciano i baffi biondi con la distinzione di tanti lord. Non vedo l'ora di riabbracciarvi tutti. E vi prego di credermi sempre, con tutte le sciocchezze che ho in testa, la vostra affezionatissima Amy. Parigi, mie care sorelline, nell'ultima lettera vi dicevo della nostra visita a Londra e come sono stati gentili Yvonne e le belle gite che ci hanno combinato. Le visite a Hampton Court e al Museo Kensington sono quelle che mi sono piaciute sopra tutte le altre. Ad Hampton ho veduto i cartoni di Raffaello e al museo tante sale piene di quadri di Turner. Lawrence, Reynolds, Hogarth ed altri grandi. La giornata al parco di Richmond è stata deliziosa. Un picnic all'inglese in piena regola. Querce magnifiche e cervi da ritrarre finché ne ho voluti. E ho udito l'usignolo e ho veduto le allodole a scendere al cielo. Londra l'abbiamo fatta a sazietà, grazie a Fred e a Frank. E ci è dispiaciuto lasciarla, perché gli inglesi sono lenti ad affezionarsi, ma se si decidono, non c'è credo chi li superi come ospitalità. Yvonne contano di incontrarci ancora a Roma questo inverno, e se ciò non avvenisse, sarebbe per me una grande illusione. Con Grace siamo due amicone, e i fratelli sono simpaticissimi, specialmente Fred. Non lo credereste, eh? Appena arrivati qui, eccolo ricomparire. Diceva che era in vacanza e andava in Svizzera. La zia, sulle prime, ha fatto il volto severo, ma lui è stato così corretto che lei non ha potuto dire niente. Siamo contentissime che egli sia qui, perché parla francese come uno del luogo e io non saprei come ce la caveremmo senza di lui. Lo zio non ne sa 10 di parole e crede di farsi capire in inglese alzando la voce. La zia ha una pronuncia all'antica. Flo ed io credevamo di saperne molto, ma ci siamo accorte che era un'illusione e siamo ben contente di avere un interprete come Fred. E come ci divertiamo! E che belle cose si va a vedere da mane a sera! Si fa allegramente colazione nei caffè e capitano avventure buffe d'ogni sorta. Le giornate piovose io le passo al Louvre. Ed è una vera orgia di pittura. Davanti a qualcuno dei quadri più belli, Jo arriccerebbe il naso perché a lei manca il senso artistico, ma io, che l'ho, vado educando l'occhio e il gusto sempre meglio. Oh, a lei piacerebbero di più le reliquie gloriose dei grandi. Figuratevi che ho veduto il cappello a punte e il cappotto grigio di Napoleone, la culla del figlio, il suo spazzolino da denti. E poi uno scarpino di Maria Antonietta, l'anello di San Dionigi, la spada di Carlo Magno e tanti altri oggetti interessantissimi. Quando tornerò a casa avrò da parlarne per ore intere, ma per scriverne adesso non ho tempo. Il Palais Royal è un luogo paradisiaco, pieno di gioiellerie e di tante cose belle che uno chissà cosa darebbe per poterle comprare. Fred voleva farmi qualche regalo, ma io naturalmente non ho permesso. Il Bois e gli Champs-Élysées sono très magnifiques. La famiglia imperiale l'ho veduta parecchie volte. L'imperatore è brutto e ha l'aria dura. L'imperatrice è pallida e bella, ma non sa vestirsi con gusto. Abito viola, cappello verde, guanti gialli. Napoleoncino è un bel bambino che siede accanto al precettore e chiacchiera sempre e manda baci con le mani alla gente quando passa nella barouche a quattro cavalli, coi postiglioni in giubba di seta rossa, un picchetto a cavallo che lo precede e uno che lo segue. Si va a passeggiare nei giardini delle Tuileries, che sono bellissimi, ma a me piacciono di più quelli antichi del Lussemburgo. Il Père Lachaise è curioso. Molte sepolture sono minuscoli salottini. Nell'interno si vede una tavola e poi i busti e i ritratti dei morti e le sedie per la gente che li viene a visitare. Molto francese, n'est-ce pas? Le nostre camere guardano nella Rue de Rivoli e noi, sedute al balcone, ci divertiamo a guardare la strada che si stende lunga ed elegante a destra e a sinistra. Questo è il nostro divertimento la sera, quando siamo stanche della giornata faticosa. Fred ci fa un'ottima compagnia. Tutto sommato è il giovane più simpatico che io conosca, dopo Lori, e ha i modi anche più belli. Vorrei che Fred avesse i capelli neri, perché i biondi non mi piacciono molto, ma i Vaughn sono molto ricchi e discendono da una famiglia eccellente. Del resto, non so perché trovo da ridire sui capelli gialli, i miei sono più gialli ancora. La prossima settimana si parte per la Germania e per la Svizzera. Si viaggerà rapidamente e dovrò scrivervi un po' in fretta, ma tengo il giornale e cerco di ricordarmi bene e descrivere chiaramente tutto ciò che trovo da vedere e da ammirare, come mi ha raccomandato il babbo. È un'ottima abitudine. Fra quello e l'album degli schizzi vi potrete poi fare un'idea del mio viaggio meglio che da questi scarabocchi. Vi saluto e vi abbraccio con tenerezza. Votre Amy. Heidelberg. Mamma cara. Ho un'ora di quiete prima di partire per Berna. Cercherò di dirti cos'è avvenuto perché ci sono delle novità molto importanti, come vedrai. Abbiamo risalito il Reno. È stato un viaggio magnifico. Io me lo sono goduto comodamente da bordo e non mi stancavo di guardare. Andate a leggere le vecchie guide del babbo, ci troverete tutto. Quanto a me, non trovo parole. A Coblenza ci siamo divertite tanto. Alcuni studenti di Bonn, coi quali Fred fece conoscenza a bordo, ci fecero una serenata, notte di luna. Verso un'ora dopo mezzanotte, Flo e io fummo destate da una musica deliziosa sotto le finestre. Saltate dal letto, riuscimmo a scorgere attraverso le tendine che ci nascondevano Fred e gli altri studenti che di sotto cantavano. Fu una cosa molto romantica, col ponte di barche, la vecchia fortezza di fronte, il chiaro di luna e una musica da far venire meno il cuore più duro. Quando tacquero, noi gettammo loro qualche fiore. Si azzuffarono per raccoglierli e con le mani mandavano baci alle invisibili dame. Se ne andarono con grandi risate a fumare e a bere birra, credo. La mattina dopo Fred mi fece vedere uno dei fiori sgualciti. Lo teneva nel taschino del panciotto e faceva il volto sentimentale. Io gli dissi ridendo che li aveva gettati Flo e non io. Rimase molto male, si fece serio e lo gettò dalla finestra. Poi si rifece calmo e ragionevole. Temo che le cose si vogliano complicare con quel ragazzo, ne ha tutta l'aria. Divertenti i bagni di Nassau e anche Baden-Baden, dove Fred perse al gioco un po' di denaro e io gli feci la predica. Quando non c'è Frank, bisogna che qualcuno lo tenga d'occhio. Kate una volta disse che sperava di vederlo ammogliato presto, e io sono d'accordo con lei, gli farebbe bene. Divertentissima anche Francoforte. Ho veduto la casa di Goethe, il monumento di Schiller e la famosa Arianna di Dannecker. Bella, ma più mi sarebbe piaciuta se avessi conosciuto meglio il fatto. Non ho voluto chiederlo a nessuno perché tutti lo sapevano o si davano l'aria di saperlo. Vorrei che me lo raccontasse Joe. Per filo e per segno. Mi pento ora di aver letto così poco. Non so niente e spesso mi tocca vergognarmi della mia ignoranza. E adesso viene la parte seria della lettera. Il fatto è avvenuto qui e Fred è appena uscito. È stato così gentile e allegro che tutti ci siamo affezionati a lui, ma non ci vedevo altro che un'amicizia di viaggio fino a quella notte della serenata. Da quel momento ho cominciato a capire che le passeggiate al chiaro di luna e i discorsi al balcone e gli episodi della giornata per lui erano qualcosa di più che uno scherzo. Io non ho civettato, te l'assicuro, mamma, ma ho ricordato le tue parole e ho fatto ciò che potevo perché le cose non si complicassero. Ma se la gente mi si affeziona, come devo fare? Non sono io che cerco di farle affezionare le persone, e quando la simpatia non la sento anche io ne soffro. Dica Gio finché vuole che sono senza cuore. A questo punto del racconto mi par di vedere la mamma che scuote il capo e di sentire le sorelle che dicono: guarda che piccola anima interessata. Ma non importa. La mia decisione l'ho presa e se Fred mi vuole io lo accetto, sebbene non abbia per lui una passione folle. Mi piace e mi trovo bene insieme con lui, come lui con me. È bello, giovane, abbastanza intelligente, molto ricco, molto più dei Lawrence. La sua famiglia non credo che si opporrebbe e io sarei felice con loro, perché sono persone gentili, ben educate e generose e mi vogliono bene. Fred, come maggiore dei due gemelli, erediterebbe il patrimonio, suppongo. E che patrimonio? Casa in città, in una strada elegante, non tanto vistosa come i nostri casoni, ma molto più comoda e con quel solido lusso che piace agli inglesi. E piace anche a me, perché è quello vero, genuino. Ho veduto la loro argenteria da tavola e i gioielli di famiglia e i vecchi servitori e i quadri nella residenza di campagna col suo parco, la grande casa, i bei terreni, i cavalli magnifici, è proprio tutto ciò che potrei desiderare e lo preferirei a uno di quei titoli nobiliari che da noi fanno abboccare le ragazze e sotto poi non c'è niente. Sarò interessata finché volete io, ma la povertà la odio e non ci voglio rimanere un minuto di più di quanto sia inevitabile. Una di noi quattro deve pur farlo il bel matrimonio. Meg non lo ha fatto, Jo non ne ha voglia, Beth non può, dunque tocca a me di mettere tutti a posto. Non sposerei mai un uomo che odiassi o disprezzassi, di questo potete star sicuri, e se Fred non è il mio ideale, mi piace però tanto. E col tempo mi potrei affezionare molto a lui, se lui si affezionasse a me e mi lasciasse vivere a modo mio. E così ci sto pensando da una settimana, da quando non ho potuto non vedere che gli piaccio. Lui non l'ha detto, ma ci sono tante piccole cose che lo lasciano comprendere. Non va mai con Flo, ma in carrozza, a passeggio, a tavola, si mette sempre dalla parte mia. Quando siamo a quattro occhi prende l'aria sentimentale e se qualcuno si permette di parlare con me fa il muso. Ieri sera a pranzo c'era un ufficiale austriaco che ci guardava continuamente e lo sentimmo che diceva a un amico, un barone dall'aria di Don Giovanni: Ein wunderschönen Blondchen. Una bellissima biondina. Fred lo guardava minaccioso e sciabolava la carne sul piatto con tanta violenza che a momenti gli schizzava via. Non è uno di quegli inglesi duri e freddi, è di quelli che prendono fuoco facilmente. Basta guardarlo in quei begli occhi azzurri pieni di vita. Dunque, ieri sera, verso il tramonto, ce ne andammo al castello. Fred non c'era perché prima era passato alla posta per vedere se c'erano delle lettere e ci avrebbe raggiunti. Ce la godevamo un mondo a curiosare fra i ruderi e le cantine con la famosa botte monumentale e i giardini fatti fare tanto tempo fa dall'elettore per la moglie, che era inglese. Più di ogni altra cosa, mi piacque la terrazza con quella vista divina. E quando tutti rientrarono, io rimasi con l'album a schizzare la testa di leone in pietra grigia che c'è nel muro, in mezzo ai convolvoli rossi. Mi pareva di vivere in un romanzo. Il nastro d'argento della nacar si allontanava serpeggiando giù per la valle. Lì, sotto i miei piedi, suonava la banda austriaca e io ero l'eroina che aspettava l'innamorato. Sentivo vagamente che qualcosa stava per accadere ed ero pronta. Niente rossori, niente trepidazioni. Mi sentivo freddissima, con appena una vaga agitazione di dentro. Ed ecco infine la voce di Fred, ed ecco lui che arriva in fretta, sotto la grande arcata, cercandomi con gli occhi. Appariva così turbato che io non pensai più a me e gli domandai cosa avesse. Egli rispose che gli era giunta allora una lettera da casa. Lo richiamavano perché Frank era ammalato gravemente e lui partiva subito col treno della sera. Non aveva che il tempo di salutarmi. Fui dolente per lui e delusa per mio conto. Ma fu solo per un minuto, giacché nello stringermi la mano egli mi disse, con un tono da non lasciarmi alcun dubbio: tornerò presto, Amy. Voi non mi scorderete, è vero? Non gli promisi nulla, soltanto lo guardai e lui parve contento. Non ci fu tempo per un congedo lungo e per dargli ambasciate. Un'ora dopo era già partito. Tutti adesso sentiamo la sua mancanza. Io sono certa che in quel momento voleva dirmi qualche cosa. Ma anche, penso, ricordandomi un vago accenno che mi fece una volta, che aveva promesso a suo padre di non impegnarsi per ora. Col suo carattere sarebbe capace di una decisione avventata, e il vecchio genitore non ne vorrebbe sapere di una straniera per nuora. Fra non molto ci rivedremo a Roma, e allora, se io non avrò cambiato idea, quando mi domanderà se lo voglio, gli risponderò sì, vi ringrazio. Si intende, cara mamma, che tutto questo è riservatissimo. Ma volevo che tu sapessi ciò che succede. Non ti preoccupare per me. Ricordati che io sono sempre la tua Amy prudente e non prenderò mai decisioni precipitate. Mandami tutti i consigli che credi. Me ne servirò se potrò. Però vorrei tanto vederti, mammina, e parlare con te a lungo. Voglimi bene e fidati di me. Tua sempre, Amy.